È la notte giusta e ne verranno altre e altre ancora. Deve succedere. Miami è una città fantastica. Adoro la cucina cubana. I panini al maiale sono i miei preferiti. Ma ora ho fame di qualcosa di diverso. Eccoci con la sigla che ormai ci contraddistingue, con la sigla che non potremo mai più cambiare, no, speriamo di sì, però in generale non è male nemmeno questa. Ringraziamo sempre Marco per avercela prodotta e siamo qui, io, Scass e io, Spaccio. Quindi benvenuti a tutti agli Spacciaserie per una nuova esultante, esuberante, incredibile, divertente puntata senza ospiti. Siamo io e lui e basta. E Graziella che spero non ci lasci mai. No, non ce la sa. E allora, abbiamo già anticipato nello spazio di monoserie qual è la serie di cui trattiamo oggi, che è Dead Like Me, giusto? Che significa morta come me. Al femminile, perché la protagonista è? Donna. Ah, e come si chiama? George. No, lo so. No, non devi avere dubbi, perché oggi lui fa l'ospite. Nel senso, io l'ho intervisto perché non so quasi niente, ho visto solo una puntata di Dead Like Me. E quindi oggi ti intervisto. Perfetto. Allora, cominciamo con un brano musicale, così facciamo una cosa che era da tanto che volevo fare. Cioè, una dedica a Mono. Mi fa piacere. In che senso? A Maria? A Maria. O meglio, al programma in sé. Mm-hmm. Il programma on air? No, il programma Mono, appunto. Ah, e come mai? Perché? Ti piace tanto? Ti piacciono gli Alice in Chains? Non mi sembrava. No, io detesto gli Alice in Chains, ma a parte questo... Ma poveri Alice in Chains, sono pure deceduti, non lo so, hanno fatto una brutta fine. E vabbè, mi dispiace per loro. Comunque, la dedica è una canzone tratta appunto dalla colonna sonora di Dead Like Me, che si intitola Life in Mono. E seguita da? Mono. Quindi è Maria che canta. Quindi Maria, goditi sto pezzo. Rieccoci qua finalmente, e dopo questa fantastica dedica a Mono, che io fossi in Mono ringrazierei, però... Ma non si sa, ma forse se n'era già andata a fare la spesa, doveva comprare la cena, sai com'è lei, ti dice di sì, poi non c'è, oppure ti dice di sì, me ne vado e poi resto, oppure ti dice no, resto, poi non se ne va, insomma, fa tutto lei. Quindi non si sa mai se c'è, se non c'è, come si comporta, ma vabbè. Ok, allora, iniziamo a parlare... Stavo per fare fermo danni, con quei piedi. Leo, tranquillo, non ho rotto niente. Ok. Allora, parliamo di questa serie. Mm-hmm. Mi piace parlare di questa serie. Allora, intanto è una serie che purtroppo consta di soltanto 2 stagioni. Poi è morta. Poi l'hanno chiusa. Dove la mandavano? La mandavano... Ma se non allora, l'hanno mandata su Rete 4 in Italia 1. In Italia, non in Italia 1. Fantastico, come è preparato lei. Ma cosa scorre qui le pagine? Lo deve sapere, su che canale statunitense? TV via cavo, TV pubblica, dove l'hanno mandato? Su Showtime. Oh, cioè non sapevi che l'avevano mandato su Showtime? Cos'altro mandano su Showtime? Vediamo se lei è pronto. Cavolo, io queste cose non me le ricordo. Dexter. Tutte, cioè, Shameless, Californication. Quelle più belle, so, quelle belle le mandano spesso su... È uno dei canali, diciamo, di... Su Showtime. Però questa serie purtroppo non ha avuto un grande successo. Infatti dopo la seconda stagione è stata chiusa. Però... Peccato. Io non l'ho vista, quindi non lo posso dire. A me sì, è dispiaciuto. Scusate, però, ma ho tosse. Succede. L'anno scorso è stato fatto un film su questa stessa serie, che si intitola sempre Dead Like Me, My Life After Life, la mia vita dopo la vita. Poi piano piano spiegheremo il perché. Ma questo viene dopo, lo dovevi dire dopo forse. No? Ok. Insomma, da questo film pensano probabilmente di... Cosa sta succedendo, Piero? Tranquillo, non ti preoccupare. C'è carte stagnole che ho magnato, diciamo, e quindi fanno rumore. Comunque, ma a parte questo. A parte questo, da questo film sperano poi di poter far ricominciare la serie. Perché ha degli appigli per far ricominciare una nuova stagione. Ma Showtime lo sa. Eh sì, perché è tra i produttori del film, per cui immagino. Forse si sono messi d'accordo. Forse se lo immaginano. Quindi noi mi fa piacere, mi speriamo. Fa piacere. Allora, per iniziare a parlare di questa serie, ascoltiamo la sigla, che abbiamo anche già contemporaneamente postato il video della sigla stessa su Facebook, sulla nostra pagina. Guarda quanto bello, siamo bello avanti. Il tuo concetto di contemporaneamente. Due minuti fa l'abbiamo postato. Scusate l'italiano, mentre Magno se ne va a Putonio. È tutto Putonio. E quindi ora mandiamo Dead Like Me Theme. Ok, fatto da Stuart Copeland. Buon ascolto. La faccia di Piero molto perplessa. No, sono soddisfatto, ho anche bevuto adesso. Dovrei riuscire a parlare in italiano. Boh, questo... Cioè, non sempre mi riesce, però è una cosa a cui mi sto applicando. Ok. Allora, iniziamo a raccontare la storia così come viene raccontata all'interno della prima puntata. Ah, del telefilm. Che succede nella prima puntata? Facciamolo Papà dire. Castoro, raccontami una storia! Facciamolo direttamente raccontare a George. Aspetta, George è maschio? No, è femmina, è diminutivo di Giorgia. Perché a lei Giorgia non è che piace più di tanto come nome. E invece si fa chiamare George. Sì. Ma, scelte sue. Affari suoi, è lei che l'ha deciso, mica io ho detto. Ho capito. E mandiamo questo primo spezzone. Purtroppo non sono riuscito a trovare la... lo dico a tutti, la versione originale in inglese. Tra l'altro, una curiosità interessante, è stata fatta metà da americani e metà da canadesi, la serie TV. È una coproduzione? È una coproduzione. Ah, ok, no, pensavo tipo la prima serie l'ha fatta uno, poi dopo si è inserito un'altra. No, una coproduzione di entrambi, è divertente, mi sembra divertente. Anche perché, come abbiamo scoperto nella scorsa puntata, tra americani e canadesi non c'è proprio tutto questo buon sangue. Esatto, non scorre buon sangue, però in questo caso si sono sopportati... Sì. Amabilmente. Amabilmente. E allora buon ascolto del primo spezzone. Vai. Questa sono io. Potrei dirvi che sono dispiaciuta di avervi deluso, ma non lo sono. Me ne frego altamente. L'esperienza mi ha insegnato che l'interesse genera l'aspettativa e l'aspettativa genera delusione. Perciò la chiave per evitare la delusione è evitare l'interesse. Ho anche poco interesse nell'essere una brava persona o una cattiva persona. Da quanto ho capito, in un modo o nell'altro sei fregato. I cattivi sono puniti dalle leggi della società. Getta l'arma in mani in alto! E le brave persone... Chi è un vicino carino? Sei tu! Andiamo, scendi da lì, tesoro! Sono punite dalla legge di Murphy. Perciò capite il mio dilemma. Giorgia Aless? Salve, io sono Dolores Herbig. Ma che splendidi occhi marroni! Sarò la sua consulente di carriera Happy Time. Perché non viene con me? Thank you. Poca università, eh? Non si è laureata? Poca mi sembrava sufficiente. Vedo che hai esperienza di gestione manageriale nel campo della ristorazione. Un bambino con una Sherry Pepsi e una porzione di Maxi Top. Sì. Si sveglia mai la mattina rendendosi conto che la sua vita è meno che inutile? Cosa? Lei ha dimestichezza con Microsoft Office Suite, Word, Access, PowerPoint? Conosco Lotus. Ora usiamo Excel, tesoro. Si affretti a seguire un corso di aggiornamento? Arriviamo subito al punto, d'accordo? Quale tipo di lavoro pensa di essere in grado di svolgere? Non lo so, cos'è disponibile? Per lei abbiamo impieghi, diciamo, non impegnativi. Reception, inserimento dati. Mi hanno detto di chiedere di essere un assistente del direttore. Beh, può chiederlo. Ma per essere sincera fino in fondo, con la sua scarsa esperienza e istruzione, sarebbe meglio che si limitasse a semplici mansioni. Che ne pensa di occuparsi dell'archivio? Non ci ho mai pensato. Potrebbe farlo adesso. Mi permette un'osservazione? Non l'ho vista fare un sorriso nemmeno una volta da quando ha messo piede in questo ufficio. E un carattere solare aiuta molto in qualunque tipo di lavoro, soprattutto qui alla Happy Time. Si fidi. Nessun datore di lavoro vuole avere a che fare con una musona. Guardi me. Sicuramente non sarei arrivata così lontano. Quanto se... lontano? Può ripetere, prego? Quanto lontano è arrivata lei? Voglio dire, questo non è un ufficio di lusso con una vista splendida e, insomma, tutti i giorni lei deve trovare un lavoro per gli altri, molti dei quali saranno senz'altro meglio del suo. Che schifo. Scommetto che nemmeno la pagano molto. Era una semplice osservazione. E ecco. Cioè, la faccia di Piero è bellissima, ve la farei vedere. Cioè, nel senso, io ti ho detto parliamo di una serie allegra, parla depressione. No, in realtà la depressione è soltanto all'inizio. Perché lei c'ha proprio questo spirito di vita. Cioè, lei è proprio vitalità zero. Infatti, da questo pezzo proprio si capisce quanto non sia molto attenta, molto felice di vivere, sostanzialmente. Sì, cioè, tira a campà, ma sì, manco. Ma neanche, cioè, proprio non gli frega niente di niente. Sta lì. È un po' paradossale la cosa, perché, beh, lo vedremo dopo. Stavi per fare... Spoiler. Esatto. E, un altro personaggio che abbiamo introdotto con questo spezzone è Dolores. No, scusa, è una vecchia cosa che mi esce sempre fuori in automatico, chiedo scusa. Dolores. Basta. Okay. Dolores è questa donna che cerca di trovarle un posto di lavoro. Lavora alla Happy Time. Che già così. Insomma, fa un po' ridere. Se vorrei vedere questo telefilm, l'Happy Time ricorrerà molte volte. Sì, sì, tornerà. Non torna. Però non è che sembra proprio tutto sto posto tanto felice, volendo dirla tutta. No? No. È tutti loculi, sai, tipo quegli uffici tutti piccoli, tutti box, uno accanto all'altro, tanti, e tutta la gente triste lì. Come si chiamano questi loculi? Cioè, Sì? No? Non so. Non lo so, c'hanno una... Mi ricordo che qualcuno che c'era andato dice io c'ho il mio e non mi ricordo come... Non lo so. Vabbè, scusate, siamo di un'ignoranza box, chiameremo scatole questi loculi. Esatto. Ne usciamo fifi, andiamo avanti. E poi che cosa succede? Vediamo, andiamo avanti a descrivere sempre i personaggi. Questi personaggi li facciamo descrivere sempre a George. Perché tu non vuoi fare niente, diciamolo. No, perché è più divertente, e soprattutto questo telefilm ha come caratteristica il fatto che George è anche la voce fuori campo che descrive molte scene. E all'inizio e alla fine di ogni puntata c'è sempre un piccolo riassunto di tutto ciò che è successo. E è Un escamotage, un espediente narrativo anche molto interessante, secondo me. E magari non da adottare sempre in continuazione, però qualche volta si può anche fare. Allora, adesso quindi, cosa ci mandi? Vi facciamo ascoltare la descrizione che George fa della sua famiglia subito dopo ritornata da questo incontro per cercare il suo lavoro. Ah, ok. Vai, attacca. Come sono andate le cose oggi? Ok. Soltanto ok? Sì, soltanto ok. È amareggiata. Le hanno detto che non era qualificata per trovare un lavoro decente. Ah, tesoro, mi dispiace. Vuoi sapere cosa penso io? Ci siamo. Non avresti mai dovuto lasciare l'università. E sinceramente ancora non ho capito perché non hai finito almeno il semestre. Che cosa ti è successo, George? Una volta avevi tanti amici. Una volta eri intelligente. È come se avessi mollato. Beh, mi dispiace dire, te l'avevo detto. Ti piace dire, te l'avevo detto. Tesoro, non parlare così a tua madre. Lo sai che questo la esaspera. Oh, grazie tesoro, sei di grande aiuto. Vi presento la famiglia. Joy, anni 41, è della Vergine. È una segretaria in carriera e le piace pattinare sul ghiaccio e i romanzi di John Grisham. Ha la fobia dei palloncini e odia la parola morbido. La ritiene pornografica. Clancy, anni 43, è del Cancro. È un severo professore d'inglese alla UW ed è, da quanto riferitomi, molto rispettato. Ha una relazione con una delle sue allieve. E quella è Reggie, ha 10 anni. Non è invisibile sul serio, ma per quanto mi riguarda potrebbe benissimo esserlo. È deliziosa. È morbida. E questa è la famiglia. Madre, padre, zio, basta. Madre, padre, lei, George, uh-huh. E la sorella. Piccolina, 10 anni, non parla mai. Ah, però... È muta. No, non è muta, parla. Però non parla quasi mai. È sempre quasi mai. Cioè il quasi che comunque fa la differenza. E... Credo. No, scusate, bisogna fare qui una piccola digressione. Che c'è? Che succede? Cosa ti turba? No, c'è qualcuno che non sa che cos'è lo spoiler. No. Cioè, dalla chat chiedono che cos'è spoiler. Possibile. Cioè, dobbiamo rimandare di nuovo al podcast della prima puntata. No, allora, no, diciamolo allora, noi. Vai. Vai Piero, spiegalo tu stavolta. Beh, lo spoiler, anche l'altra volta credo che l'abbia spiegato io. Comunque sei sempre lì a dimandare. Lo spoiler è la piccola anticipazione o grande anticipazione di ciò che è avvenuto in una puntata che l'altro non ha visto. Ok. Questo in sostanza è... E quindi poi si crea questo, lo spoilerone, lo spoilerino, lo spolverino, no, un'altra cosa. E comunque c'è l'avversione di tutti quelli che non hanno visto qualcosa verso chi fa spoiler o spoilera. Detto un po' in italiano. Io di solito spoilero, e tutti mi dicono, ma scherzo, no, io faccio spoiler piccoli. Giusto per far venire la curiosità, perché sennò nessuno li guarda. Tipo, facciamo uno spoiler su un'altra serie TV. Tipo, In House, nell'ultimo episodio, c'è un ritorno. Un ritorno numerico. Spoiler, ma non ho detto niente. Cioè, giusto così, giusto per mantenervi in allenamento. Oppure possiamo dire una cosa che la settimana scorsa non abbiamo detto in onda. Io pensavo di averlo detto, ma in realtà non l'abbiamo registrato. Che l'attore che fa Barney Stinson, ovvero Neil Patrick Harris. In quale serie? In How I Met Your Mother. Sciocco, lo so, ho studiato. E Neil Patrick Harris è gay in realtà. Lui fa tutto il donnaiolo, avevamo spiegato, è gay. E sta con, cioè, ora il nome del tizio non me lo ricordo, però è colui con che l'attore che ha recitato come Scooter. E questo, siccome poi mi hanno rimproverato su Facebook, mi hanno detto, ma come, non hai fatto lo spoiler finale, non hai detto questa cosa. Ho fatto, no, in realtà io l'ho detta, ma non eravamo in onda, cioè lo dicevamo tra di noi. E comunque, volendo essere precisi, non è spoiler. No, è una informazione di servizio che non riguarda la serie, riguarda in generale l'ambiente serie, ma è estraneo alla trama. È estraneo alla trama. Ok, dopo tutta questa parentesi. Ok, torniamo a bomba, a come bomba. Dicevo io qualche puntata fa. Torniamo a bomba. È bello quando uno si riascolta una ipotesi e scopre quello che dice e scopre di dire delle grandi cazzate. Comunque. Dici? Sì. Allora, io direi, mandiamo un ultimo spezzone per adesso e poi un brano musicale. Eh sì, perché sennò la gente si rompe. E infatti. Questi spezzoni, dai, mandiamo musica poi dopo. Allora, raccontiamo cosa è successo, a che punto siamo arrivati della storia. Abbiamo detto niente, perché questo c'è lei che cerca lavoro, scazzatissima. C'è lei, abbastanza scazzata. E poi torna a casa e c'è questa torna a casa, piccola little family. Little family. Poi che cosa fa? Comunque lei un lavoro l'ha trovato, quello l'ha detto prima Dolores. Archivista. L'archivista. Mm. Per cui lei va, si sveglia molto controvoglia e va a fare l'archivista. E questo è ciò che succede una volta che lei è lì. se ne va per la sua pausa pranzo, mentre era lì che non ne poteva più, e ascoltiamo che cosa succede. Era una bellissima giornata, il sole splendeva, il cielo era terso e l'agenzia spaziale russa stava facendo rientrare dall'orbita la Mir. A quanto pare ci fu un errato calcolo nella densità della ionosfera al momento del contatto o qualcosa del genere. L'intero apparato doveva cadere nell'Oceano Pacifico, ma qualche pezzo finì sulla West Coast, incluso il sedile di un Vater 0G. Scusami, sai dirmi l'ora? 1:05. Grazie, grazie mille. Ragazza, come ti chiami? George. Ah. Cognome? Qual è il cognome? Sparisce. Comincia con una L. Ti conviene sbrigarti, George. Oppure farai tardi. Dicono che tutta la tua vita ti passa davanti agli occhi prima di morire. Forse questo è vero se sei un malato terminale o se non ti si apre il paracadute. Ma se la morte ti coglie di sorpresa, l'unica cosa che hai tempo di pensare è... Oh, merda! Cioè, c'era un rospo. C'era un rospo, sì. Questo è un piccolo... spoiler. Che non ho fatto. Ma come c'è un rospo e non dici niente? No, allora, perché... Ma sei un protagonista della serie? Ma ritorna svariate volte. Tutto questo perché... Non parla mai? No. È un rospo soltanto... muto. Cra. Proprio dice cra con questa intonazione qui. Sì, sì, no, ci dice, brr, cioè, più o meno non sono rotto in pratica, va bene. Non lo fare mai più, ti prego. Ok. Comunque, quella che avete appena ascoltato è la morte in diretta di George. Colpita. Ricordiamo che George è sempre donna. Sì. Perché io mi fa sempre strano. Come Andrea quando lo usano come nome femminile. Mi fa sempre un po' specie. Un po' quel che di. Andrea. Andrea. Ciao, Andrea. Ciao. Comunque è lei appena colpita dalla tavoletta del Vater 0G della stazione spaziale Mir che stava rientrando. Cioè, c'è una fortuna, però. Cioè, certo. Ora non dico che culo perché con la tavoletta del Vater poteva. Ops, l'ho detto. L'hai detto. E senti, fermiamoci. Dimmi. Un attimo. Pausa. Andiamo a mangiare, no? No, mandiamo un brano. Quale vuoi mandare? Mandiamo quello, vai. Quello che ho scelto? Sì. Ok, allora annuncialo tu, vai, che sei bravissimo. Mandiamo Nomad's Land di Métis. E Pise, no? Va bene quello che è lui. Opla. Would you like some time alone, Stan? Please. I think they see a chance to become something else. Someone else. Comunque, tu hai detto che non eri riuscito a trovare pezzi in inglese. Come vedi, io con un solo tocco, senza aver guardato nulla, te l'ho piazzato lì, visto? Ti ha fatto anche da colonna sonora. E non che sei bravo, contento? Piero. Cioè, sei un genio. Molti apprezzavano il sottotitolo, però potevi taggarle le canzoni, Animalox. No? Ah. No? Non le hai taggate. Piccole discussioni tecniche qui in diretta su www.radiocicletta.it. Tornate a trovarci. Io ero convinto l'avessi fatto tu. Come ti mando un file zippato e visibilmente così come mamma l'ha fatto, cioè. Però vabbè, dai, comunque sono abbastanza taggata in generale. Sì, immediatamente sì. No, ti pento il pezzo romantico su cui tu poi fai i tuoi bei sogni la notte. Ma okay, torniamo a parlare di Dead Like Me, perché sennò la gente perché dice, ma io volevo ascoltare Dead Like Me, volevo scoprire di cosa parla, volevo parlare di altro e quindi. Allora, non so se avete notato, Quando? Durante nella il pezzo? Nella spezzone prima? Ah, non durante la canzone? No, non durante la canzone. Però era bellina la canzone, cioè, nel senso, era rilassante. Rilassante. A parte il fatto che ci parlavano sopra, vabbè, poi per il resto. Sì, no, ma poi dicevano anche cose interessanti. Se capite un pochino di inglese, riascoltatevela, ricercatevela. E... vabbè, Piero, tu non farlo, però... E dicono cose, molte cose sulla serie, sono tutti vari discorsi sulla morte, è interessante. Sì, sì. Se lo dice lui. Passato, sì, sì. Comunque, stavamo dicendo... Nello spezzone video di prima che abbiamo ascoltato, perché credevi di cogliermi in castagna, ma no. Perché in radio le cose si ascoltano. Bene, quello della morte. Quello della morte. Quello della tavoletta. Quello della tavoletta. Ossia, sì, ero attento, sì, ci sono, ci sono. C'è stato, dimmi, un personaggio che ha fatto una domanda a George. Le ha chiesto che ora è. Che ora è? Voi ha detto l'una, non mi ricordo. Sono le 21.08. Informazioni di servizio su www.radicicletta.it. Perché se non sapete l'ora, ce lo chiedete in chat. Noi ve lo diciamo. Segna l'orario. Poi? E le ha chiesto che orario era. Ah, ho capito. Cioè, tu vuoi dire che quello lì che le ha chiesto l'orario, in realtà ha fatto qualcos'altro. Ho visto che l'accarezzava. Però lei non se ne accorge. Sulla spalla. Sulla schiena. Molto lascivo. Molto lascivo. Infatti, vabbè. Poi, qui si potrebbe fare vario. Spoiler. Però, per ora no. E che cosa ha fatto? Le ha tolto l'anima dal corpo, giusto qualche istante prima della sua morte. Aspetta, gli ha tolto l'anima? Sì. Ma quindi quando è morta non era morta lei? Cioè... No, è morta. Però che cosa succede? Quando stai per morire di morte violenta... Aspetta, qui sento che c'è un discorso religioso che mi sta per arrivare. No. No, c'entra nulla. Ah, perché magari l'anima, sai... Ci può essere delle religioni che lo vedono manicheisticamente oppure animisticamente oppure non so che cosa sta succedendo. No, in realtà non c'entra niente la religione in questo telefilm. Se ne fa un breve accenno, ma niente di più. Quindi c'è una religione, però non si dice. Cioè si parla di una probabile divinità che potrebbe esserci oltre, però... Con la D maiuscola o minuscola? Minuscola. E che vuol dire? Perché non si sa chi è. Ah... Cioè, ad esempio, se fosse Zeus, tu non puoi chiamarlo Dio con la D maiuscola, perché Dio con la D maiuscola è un altro, così come non puoi chiamarlo Allah. L'Allah. Era un Dio. Uno. Uno. A caso. Dei tanti o dei pochi, o dell'unico, uno, ma che chi lo sa. Qualcuno, nessuno, 100.000, insomma. Si vive nell'ignoranza in questo telefilm, diciamolo. No, si vive nell'ignoranza. È vero. Questo poi spiegheremo anche il perché, volendo. Comunque. Vogliamo. Dopo lo spieghiamo. Comunque. Lei stava per morire di morte violenta. Sì, la tavoletta. Beh, la tavoletta lanciata dallo spazio. Si è incendiata. Cosa dura, la statua esplodeva. L'asfalto che si sollevava. Senza, una cosa brutta. Brutta. E quindi che cosa succede? Si sarebbe fatta tanto male. Avrebbe sofferto molto. E quindi? Gli toglie l'anima. Per cui, per evitare di farla soffrire più di tanto. Cioè, morire è da morire. Questo poi lo scopriremo dopo. Ricordati che devi morire. Sì, mamma, scrivo. Però ho detto, per evitare di farle soffrire, di farla patire il grande dolore dell'impatto con la tavoletta, le tolgono l'anima qualche istante prima, lisciandola, accarezzandola. Questo è il modo che loro hanno per... Non lo suggerivano in chat, io ho solamente detto ciò che loro pensavano. Appunto, per farle questo favore. Quello che succede subito dopo l'impatto è che lei si ritrova fuori dal suo corpo, ma non se ne rende conto. Cioè, come immagine, fammi capire, perché io questa cosa qui non l'ho vista. Come immagine? Ci sono due George. C'è il cratere lasciato dalla tavoletta. Ok. Si vede una scarpa che portava lei. Mm-hmm. E poi si vede lei che cammina in mezzo alla gente. Che ascolta ciò che la gente dice. E un uomo le passa attraverso. Wow. Tipo Ghost. Grandi effetti speciali. Sì, più o meno tipo Ghost. Ma cos'è sta cosa? No, scusa, rimbalza Skype qui. Sì. Ah, ok. Ok. Quindi diventa un fantasma. Diventa un fantasma. E quello che succede subito dopo, quindi lei si deve rendersi conto che è morta. Si sta rendendo conto che è morta. Ho capito. Ma questo succede a tutti quelli morti? Sì, tutti quelli morti. Però noi lo scopriamo adesso. Perché noi non lo sappiamo ancora. Tu non lo sai, io sono già morto una volta. Una volta una persona mi è passata attraverso. però non è stato bello. Era un uomo, per quello non è stato bello. Fosse stata una bella ragazza, avrei apprezzato di più questa, diciamo, questo trapasso. Vabbè, a parte le cavolate, contavi dicendo. Ok. E niente, lei si sta rendendo conto che è morta. E ci sono questi assistenti della morte, che sono quelli che le hanno tolto quelli l'anima. Che indicano l'uscita, gli assistenti. Più tipo gli assistenti. Esattamente. Sono che indicano, a destra, che indicano l'uscita. Quattro. Che quando le escono le mascherine, prima le fate indossare a voi, poi dopo i poi bambini. Poi i vostri bambini, sì. Okay, esattamente ciò. E quindi ascoltiamo quello che succede subito dopo. George che si rende conto di essere morta. Va bene. Ehi, ragazza morta! Aspetta un momento! Lui è Rube, è un non morto. Dicono che ci sono 5 stadi psicologici della morte. Ironicamente, questo vale anche se sei già morto. Numero 1, negazione. Tutto questo non sta accadendo. Non è reale. No, nocciolina, è più reale della realtà. Sei morta. Lei è Betty. Anche lei è una non morta. Questo è tuo? Cavolo, quel coso ha fatto un terribile rumore, no? Ma veramente non ricordo di aver sentito qualcosa. La tua anima è uscita prima dell'impatto. Lo facciamo per le morti violente, come cortesia. Ma io non volevo morire. Nessuno lo vuole in genere. Solo i suicidi. La seconda fase è la rabbia. Io ho solo 18 anni, non ho fatto niente di male, non è giusto. Allora, voi cosa siete? Degli angeli? Roba simile? Oh no, no signora. Agli angeli non piace sporcarsi le mani. Sai, loro sono della classe dirigenziale. Vedi, noi abbiamo lo sfortunato destino di essere chiamati mietitori tenebrosi. La terza fase è la contrattazione. Non potete prendervi qualcun altro, come un vecchio decrepito o un barbone? Non lo dirò a nessuno, lo prometto. Va bene. Davvero? No. Io rivoglio la mia vita. Quante storie, non ci stavi facendo niente. E poi c'è la depressione. So cosa potrebbe tirarti su di morale. Cosa? La tua autopsia. È impressionante vedere il tuo corpo tutto vuoto e freddo, o nel mio caso a pezzettini. Rube dice: è come guardare una torta ripiena di frutta che hai appena gettato a terra. Per quanto possa essere buona, non ti va più. Sembra un po' strampalato, ma mi ha tirato su il morale. Non capisco perché un'autopsia. Beh, bisogna comunque identificare il cadavere. Ed è così complicato. Sei stata colpita da un oggetto che viaggiava a 2600 km orari con una temperatura di circa 800 gradi centigradi. Non è facile. Non so se mi colpì di più il fatto di essere morta o che il primo uomo a toccare il mio corpo nudo fosse un medico legale. È stato tutto molto bello, ma non credete che sia ora che mi avvii? Perché? Devi andare da qualche parte? Non lo so, non devo. Prima aspettiamo che il tuo corpo venga messo al riposo. Sono un mucchio di carne in un sacco, quanto altro riposo mi serve? Non importa, ciò che importa è che tu dica addio a questa vita come si deve prima di salutare la prossima. Che vuol dire la prossima? Sarò forse reincarnata o roba simile? Non dire cavolate. Non dire cavolate. E non diciamole. Beh, è difficile, noi diciamo sempre. È abbastanza. Quindi, fammi capire. Vai, domanda, io ti rispondo. Allora, lei prima si arrabbia, poi fa... E poi capisce che è e dice, che si fa? E quindi dice, io voglio andare avanti. Cioè, ma che ci sto a fare qui? Ciao. Ora ha deciso di fare qualcosa della sua non vita. Sì, la cosa strana, appunto, è che dopo morta si rende conto che la sua vita, nella sua vita non ha fatto niente. La mia vita non può più vivere. No, più o meno. Però succede una cosa. Ok, non leggiamo la chat. Tu vai, vai. Dopo la... Mi sono impallato. L'impallato, anzi, occhi pallati. Andava in onda la domenica, ora non so più quando va in onda. Sempre la domenica sera, però ultimamente non stanno andando in onda, se non sbaglio. Hanno avuto dei problemi. Però vabbè, loro ci sono. Sì, il programma comico di Radio Cicletta, la domenica. Controllate l'orario sul sito, alla sezione programmi. occhi pallati. Sei ripreso? Perché sennò continuo. Ripreso, ok. Dico tutto il palinsesto. Te la ricordi tutta a memoria? No, però okay. Qualcosa. Però ci possiamo. Ci sono i programmi preferiti che mi ricordo quando vanno in onda. Benissimo. Tipo Cinemando, va in onda il mercoledì dalle 6 alle 19, dalle 18 alle 19. Perfetto. Scrap Jets? Scrap Jets mi sembra il o lunedì o martedì, però non mi ricordo l'orario. La sera dopo cena dalle 8 alle 9. Dalle 9 alle 10. Il martedì. Ah, vedi, quello piace a te. Tipo Sottobosco invece va in onda il martedì, credo. Comunque, a parte queste cose qui, l'Orco Trio l'hanno spostato e va in onda il mercoledì dalle 22 alle 23, credo. Correggetemi se sbaglio. Se sbaglio mi correggerete. Ok, comunque. Allora, stavamo dicendo, riprendiamo il filo del discorso. Tu non la guardare, la cioè, lei ha... è il diavolo, perché tu non guardare qua. È che mi impallo. Sì. Non ti impalla, parla per i fatti. Allora, lei davanti al microfono. È morta. E fino a qui. Fino a qui l'abbiamo capito. Ha accettato la sua morte e adesso dice, vabbè, ormai sono morta, me ne vado. Sono morta perché ero bambina. Scusa, 18 anni c'aveva, cioè non è che fosse troppo grande. Però, cosa succede? Lei dice, voglio andare avanti. E loro gli dicono, oh, dove vuoi andare? Aspetta. Cioè, perché aspetta? Lei domanda. Perché? E loro rispondono. E loro rispondono. Perché la fanno entrare nella truppa dei non morti. Cioè, di coloro che sono questi mietitori di anime. Hanno il Kalashnikov, questa truppa. La truppa no, dei niente non Kalashnikov. E in pratica le spiegano che cosa succede quando si diventa non morti. E ora tu me lo farai scoprire? Certo. Ti ringrazio. Vai. Di nulla. E ora che facciamo? Si va in avanti o in alto? In avanti, non in alto. Niente cancelli dorati per te. Niente cori d'angeli in vista, mia cara. Che bastardo, mi mandi all'inferno! Non sopravvalutarti, non sei poi così interessante. Tu diventerai un assistente della morte. Ah? Centinaia di migliaia di persone muoiono tutti i giorni. I corpi sono facili. Scavi una buca, accendi una candela. Ma che ne è delle loro anime? Chi si occupa di loro? Lo facciamo noi. Il nostro ruolo è fare da garanti ai disincarnati. Quando le loro anime lasciano la carne, sono sotto la nostra tutela finché non giungono alla destinazione finale. Presumo che tu stia parlando del paradiso. Perché no? Io spero che non sia tutto pacchiano come nella Bibbia. A me piace pensare che sia tutto come qui. Questo vuol dire che c'è un Dio? Secondo te? Willkommen alla Waffle House. Cosa vi porto? Una bistecca con le uova. Bistecca al sangue, uova all'occhio di bue. Toast al posto delle patate e lo sciroppo caldo per le frittelle. La prego, non risparmi sul burro. E una porzione di pancetta croccante, molto croccante. Da bere? Limonata. Io non rimango, ho un appuntamento in centro. Spero che non sia un'altra prostituta. Signorina? Signorina? Avevi detto che nessuno mi vedeva. Prima che ti unissi alla truppa dei non morti, ordina o penserà che sei una ritardata. Quello che ha preso lui. Sì, ma non mi è ancora chiara la questione perché a me, me lo dite. Hai fatto raggiungere la quota a qualcuno. A tutti viene assegnato un numero non specificato di anime da radunare. Ora, non sai quanti sono finché non hai accalappiato l'ultimo. Ricordi quello strano tipo che ti ha chiesto il tuo nome poco prima che ti colpisse quel sedile del water? Sì. Tu eri l'ultima per lui. Si è beccato una promozione e un bel pacchetto di gratifiche. E tu prendi il suo posto. Personalmente sono felice che se ne sia andato. Era un gran rompiscatole. Oh, è come essere il milionesimo cliente servito, solo che purtroppo non si vince. Potevate dirmelo prima. Perdonami, nocciolina, ma... morire è già abbastanza traumatico senza queste altre cose che confondono le idee. Cerca di non andare nel pallone. È una cosa del destino, goditela. Continuavano a sballottare qua e là parole come destino e fato. Il termine scelta non fu mai menzionato. Questo perché io non avevo scelta. Lei non aveva scelta. Vabbè, non farò polemica per i tuoi tagli alle parti che hai fatto. Potevi metterci quel secondino in più per farci sentire anche il finale, maledetto. Però, parte questo. Però. Quindi, ci ha spiegato un po' come funziona la troupe. Ok. La truppa. La truppa. Mm. Cioè, ci sono questi non morti che in pratica tolgono le anime. Un numero a caso di anime deciso da qualcuno è assegnato ad ogni non morto. Quando questo non morto finisce le anime, questo numero, se ne va e passa oltre. E tu, lei quante anime avrà? E non si sa. Ah. Cioè, quando finisce la serie, lei è ancora lì. Ah, cioè, non glielo comunicano. Cioè, no. Tu vai avanti con lo sai soltanto, lo sai soltanto quando hai preso l'ultima. È come ti arriva un messaggio dall'alto. Più o meno. Ora serviamo il numero Giorgi. No. Più o meno. Ok. Ma come media, quante anime si devono prendere di solito? Ma tante. Beh, bel numero. No, non si sa mai in realtà, non si parla mai di numeri, però tipo ci sono altri non morti che sono non morti da più di 20 anni. Per cui, boh, almeno una o due al giorno fagliele prendere. E, ok. Adesso, mandiamo un altro brano. Sempre dei Métis che si piacciono tanto. Sì, cioè, questa colonna sonora sono molto presenti. Ora, speriamo non ci siano le parole, cioè non parlino. No, questa è cantata. È particolare come canzone. Ah, sì? Si sente nella prima puntata, tra l'altro, sempre di... Ricordiamo che si chiama Boom Boom Bah. Ricordiamo, perché non so se è taggata, per cui ricordiamolo. Sì, è taggata, se no qua scriveva no tag. Si vede che non lo usi da un po' il programmiccio. Graziella... io non ci sono stato qui io. Anche prima lo faceva. Vabbè, polemiche a parte, ascoltatevi Métis con Boom Boom Bah. Sempre dei Métis. E ti ci pensi tu quei bambini? Fa, bum bum setene, bum bum ba, bum bum ba. Il bambino diventa scemo alla fine, chiaramente. Povero bambino scemo, no. No, magari no, magari diventa Einstein. Che ne sai, magari ad Einstein facciamo bum bum ba. Possiamo provare a fare una prova, no? A quel, un campione di bambini gliela facciamo sentire, un campione di bambini no, e poi vediamo che succede. Sì, vabbè, ma la devi fare sentire intensivamente, cioè tipo 10 volte al gioco. Certo. No? Vabbè, tanto 30 minuti di bum bum ba può andare, dai. Bum bum ba. Ok. Io mi impallo. No, alla non, Piera, la guardare. Non farmi guardare la chat. Guardami. Guarda il microfono, okay. Guarda com'è bello. Chi lo carezza. Però, si sente? Non tipo simbolo fallico, però. No, non fare ste cose. Basta. Adesso parliamoci al microfono. Parliamoci. Non ti impallare. Parliamo io e te. Certo. Perfetto. Oh, vai. Mi sta intrecciando, aspetta. Non è possibile. Sono 4-5 mesi. Quanto tempo è che fai radio? Radio, cioè questa cosa qui che facciamo noi. E considera che negli ultimi 3 mesi usavo le mie cuffie del mio iPod. Ma lasciamo perdere. Comunque, vabbè, ma io lo sfotto, in realtà è bravissimo. Grazie Coco per essere tornato. Grazie a te Coco per avermi rivoluto qui. Bene, allora. Io vedo qui scritto Gremlin. Ok, ma perché? Cosa sono? Chi sono? Perché? Non sono stati mai citati fino adesso, ma come escono sti Gremlin? Allora, qual è il problema? Lui magari si era immaginato un lancio molto più filosofico sui Gremlin. Allora... No. Non sapevo come lanciarli. Quindi, beh, perfetto, vedi? Vai. Perfetto. Allora, direi... Salutiamo in diretta Seba, amico di Tom. Oh, Seba, amico di Tom. Che è stato anche nostro ospite. Sì. E che tra l'altro faceva un programma che si intitolava... Una colazione molto tarda. A Very Late Breakfast. Che ora non lo fa più, cioè si vede che fa più. Fa male non fare colazione. Sappiatelo. Vabbè. Basta. Anche tardi, ma fatelo. Okay. Adesso mandiamo 2 pezzettini, uno dopo l'altro, che ci introducono che cosa succede ai non morti. Cioè, ok, sei non morto, va bene, devi prendere le anime di quelli che muoiono, okay. Però all'atto pratico, questi non morti che sono? Sono divisi in categorie? Non lo so. Sì. Ah, sì? Ebbene sì. E di quale categoria fa parte George? Lei è una sterminatrice? No. Che no. È una agricoltore? No. Una che tiene il granaio? Che ne so che categorie ci sono? L'hai vista tu questa serie, mica io. Sentiamo e facciamocelo spiegare. Ok. Gli assistenti della morte vengono assegnati a specifiche divisioni. La mia divisione è influenza esterna, traduzione, omicidio, suicidio, incidenti, eccetera. E dico sul serio, eccetera. Allora, vi divertite a far cadere i pianoforti sulla gente? Una specie di feticcio? Non è compito nostro far cadere i pianoforti, né i sedili del water. E allora di chi è? Dei Gremlin. Dei Gremlin? E sono visibili? No, non si possono vedere. Almeno non ci riesci se li fissi direttamente. Ma a volte, se qualcosa sta per accadere o è appena accaduta, puoi vederne uno di sfuggita con la coda dell'occhio. Perciò non eccitarti. Ma sono esseri reali? Temo di sì. Diciamo, fanno sì che gli incidenti capitino. Mettono in moto le cose. Uccidono le persone. È come la vita e la morte, devono esistere in perfetta armonia. Yin, yang, chiamalo come vuoi, ma quell'equilibrio deve essere mantenuto. Altrimenti? Le cose sfuggono di mano e non si mette bene. Guarda, quello è l'aspetto che abbiamo per i vivi. Oh, santo cielo. Coniglietto pupù. Di tutte le cose che fanno parte dell'essere morti, questa era la cosa che più mi aveva scossa. Chi decide quale sarà il nostro aspetto? Non lo so. Forse questo è l'aspetto del nostro bambino interiore cresciuto. Se le cose stavano così, la strada verso la maturità del mio bambino interiore era lastricata di crack e cocaina, vendita del mio corpo e uno o due figli indesiderati. Credi che sia carina? Non quanto te. Avrei dovuto dirgli grazie. Volevo dirgli grazie. Avrei voluto sorridere, fare la simpatica, ridere. Invece dissi, come no? Però in effetti c'ha ragione, nel senso, bruttina nella vita vera, sì, il suo aspetto. Perché dobbiamo dire una cosa. Noi continuiamo a vedere George come la vedevamo prima della morte. Una bimba. Una bimba, poverina. Vabbè, ciottenne, insomma, bimba, mica tanto. Però, che succede? Gli altri non possono più vederla come era prima, se no che dice fantasma. No. La vedono brutta. No, vedono un'altra faccia che in effetti corrisponde esattamente alla descrizione, ecco, che lei ha fatto. Visto che tu non puoi guardare la chat, ma io sì, Seba dice una marmitta. Che in effetti rende un po' l'idea di questa, di come sia brutta quando... Cioè, nel senso, non è bellissima. E neanche no. Il tipo che le sta accanto, che non so chi sia, perché tu non me l'hai presentato. Lui è un altro non morto. Ah, quello si che faceva coniglietto, coniglietto. Esatto. Gente intelligente prendono come non morto. No, perché non è, cioè, sono più o meno presi a caso. Ho capito. Intanto volevo ricordare che chi volesse partecipare al quiz degli spacciaserie può sempre aggiungerci su Skype, scrivendo gli spacciaserie attaccato, e chiamare in diretta e partecipare al nostro quiz per vincere la tazza virtuale, non più virtuale. Oh yeah. Prima di chiamarci su Skype, però, magari contattateci in chat e ditecelo. E ditecelo se volete. Cioè, ditecelo. Sarebbe gentile. Ok, intanto noi parliamo de... Continuiamo e spieghiamo che cosa, come si evolve, cioè, ad esempio, no? Un non morto che cosa fa durante la vita, cioè durante la sua non vita? Mangia? Mangia. Dorme? Dorme. Poi? Va in bagno? Anche. Usa la tavoletta del water? Anche. Anche se ha avuto delle relazioni brutte prima? La usa uguale. Certo. La pulizia. Deve avere un lavoro? Deve avere un lavoro? Certo, perché mica viene retribuita. Ma se no come fa a mangiare? Aspetta, ma fammi capire, cioè se poi tu c'hai un orario di lavoro e durante quell'orario devi andare ad accarezzare uno perché gli devi fregare l'anima, come fai? Prendi un permesso. Ma non, ce ne sono solo limitati i permessi, cioè non è che puoi girarti. E infatti questo è un problema, perché vengono fuori i permessi più assurdi, perché le zie che muoiono si susseguono molto, oppure visite dal medico piuttosto che altre cose. O almeno la febbre, no, non viene fuori questo. No, o almeno questo è quello che fa George. Mm-hmm. Perché George non fa spoiler. Non lo so, faceva spoiler fino a poco fa. Poi hai messo mani tu e ora non io fa ho più messo spoiler. Mani. Io no, scusate, c'è. Volevo dire spoiler, però. Spoiler. Ecco. Spoiler. Basta vedere. Io basta che metto ma tu non devi toccare Graziella in quanto tale, perché io se faccio spoiler basta, ho deciso. Graziella, perché tu hai toccato, odia. Lui ha pensato ma no, ma perché Così è andata così, io lo Grazie sapevo. Grazie alla mia odio. Dai, su che tardi, che poi dopo di noi c'è All Night in Slow. Infatti. Allora, stiamo dicendo. Abbiamo fatto un po' di spoiler, perché George si trova un lavoro. Paradossalmente, si trova un lavoro sempre alla Happy Time. Però invece, archivista di nuovo? Non archivista, ma questa volta fa finta di essere più allegra e boriosa. Sì. E quindi più la signora più happy time. Sorride e le danno un lavoro d'ufficio diverso, sempre abbastanza noioso, volendo proprio dirla tutta. Però non tutti gli assistenti della morte fanno lavori di questo tipo. Sì, ad esempio, visto alcuni che prendevano spiccioli, cose. Mason, che è questo ragazzo che ha parlato nell'ultimo spezzone, lui ruba. Ti stavo per chiedere, ma tipo si può fare tipo come lavoro? No. Infatti sì, lo fanno. Ah, sì, sì. Oppure tutti in generale dormono in appartamenti di ex morti. Cioè muore una persona e tu gli freghi l'appartamento prima che si accorgano che lui è morto. Wow. E l'affitto? No, così non lo paghi. Perché è un problema. Cioè devi trovarti un altro... Cioè è una palla sostanzialmente... Nessuno ha una villa a Lampedusa da prestare. Signor Presidente, ci sono dei non morti che hanno bisogno di una sistemazione. Nel caso lei potesse fare qualcosa. No, non può fare niente. Non si può fare niente. Okay. Comunque, andiamo avanti. La vita di un non morto, come va? Va avanti appunto lavorando, comunque svolgendo delle attività a lui più gradite. E poi qualcuno gli dice chi è la prossima persona che deve morire. E tutto questo avviene a colazione. Tutti i non morti fanno colazione insieme. Ascoltano Seba. O ascoltavano. Ascoltavano Seba. Poi fanno queste belle colazioni americane per cui mangiano pancetta, uova, ananas. Tipico del luogo dove si riprende, quindi va bene. E infatti tutto è divertente. E che cosa fanno? Il capo gli dice la prossima persona che deve morire, che quindi alla quale loro devono prendere l'anima, su post-it gialli. Ah sì? Sì. Come mai questa scelta? È così, non si sa. Ognuno fa come gli pare. Sì, io volevo cercare uno spezzone che c'è nelle prime 9 puntate, in cui c'è tutta una disquisizione su questi posti gialli. Ma non l'hai trovato. Ma non l'ho trovato. Vabbè, fa niente. Non però devo. Volevo farvelo ascoltare. Comunque, sappiate che la... Don't worry. La morte viene distribuita. La morte che può anche essere chiamata... Bene, sul post gialli, va bene. E sul post c'è scritto il nome puntato, il cognome. Puntato? No, senza puntato. Quindi G. Bale, per esempio. Ad esempio. L'ora approssimativa della morte, perché chiaramente... 20:59 oppure 20:30? No, 20:59 circa, che può essere 58, ma anche 21. Ah, okay. C'è un minimo di... Poi di se metti che non c'hai proprio l'orologio messo per bene. È giusto. E il luogo... Di dove questo si deve morire? La via. Sì, l'indirizzo. Okay. E quindi la mattina a ognuno vengono assegnati tot post-it. E lui, nella giornata, questo non morto, va lì e si prende le anime e le aiuta a trovare. Gli appuntamenti, diciamo. Esattamente così. Lo sai oggi in agenda? No, c'ho un G-Bail che va preso alle 21. Poi, però, prima alle 17:04 minuti devo andare a prendere un V-Fort. Che infatti la cosa divertente è che loro non sanno mai chi è che deve morire. Per cui soprattutto all'inizio George è molto in difficoltà, perché non sa se è un uomo, se è una donna, se è giovane, se è vecchio. Dice niente il post-it. Non dice niente. Per cui non sai mai fino all'ultimo, e all'inizio fanno anche delle scommesse su quale sarà la causa della morte. Ma tipo se tu sai il cognome non ti puoi mettere lì a gridare "Ah, Ford! Ford!" E si gira quello lì. No, qualche volta sì, però non è sempre fine. Cioè, poi devi trovarti una scusa per chiamare quella persona. Per accarezzarlo. Anche. E gli puoi stringere la mano. Ah. Cioè, basta piacere. Così. Rai 1. Sì. E quindi... Mi vuoi fare ascoltare qualcosa? Sì, voglio farti ascoltare George, che parla e che dice... Ha appena trovato un appartamento di una persona che è appena morta. E parla e descrive la sua nuova vita da non morta. Un'ambulanza. Mi dispiace, amico, sei morto. Così, piano. Piano. Vai. Non è vero. Così, ecco. Ancora un po'. Oh, mi avevano pagato. Vai, go. Oh, merda, che sfortuna! Vivi da solo? Aveva uno charme da ostello del terzo mondo con ventilazione inesistente. Almeno non c'erano cadaveri. E di tutte le varie macchie seccate dal sole, nessuna era sangue vivo o coagulato. Era ufficiale, stavo per conto mio. Ero morta, anzi, non morta. E non solo dovevo trovarmi un lavoro, dovevo fare anche il bucato. Questa era la mia vita dopo la morte. Ipnotizzata dal vortice saponoso del bucato, mi resi conto di una cosa. Se fossi viva, sarebbe mia madre a lavarmi le lenzuola. Sarebbero apparse magicamente sul mio letto, belle pulite e rimboccate sotto il materasso. Quei giorni erano finiti. Tutto era finito. Questo non ha reso più facile andare avanti. Anche se la vita era andata avanti senza di me. Siamo tornati. Questo pezzo che non abbiamo annunciato e quindi dobbiamo disannunciare. Disannuncialo. Era Gavin DeGraw con Chariot. Wow. Credo. Sì. Ebbene sì. Sì, non so la pronuncia se fosse completamente corretta. Intanto ricordiamo che chiunque volesse partecipare al quiz deve aggiungerci su Skype e chiamarci. Aggiungerci cercando gli spaccia serie, tutto attaccato, tutto minuscolo. Esatto. Allora, a questo punto, io ho qui le domande pronte, ma se nessuno ci chiama. Se nessuno ci chiama. Diciamo un altro paio di cose su questa serie. Dimmele. Diciamo che George in realtà non accetta molto la morte. No. No. Cioè, ma comunque una cosa che fasi non le aveva. Sì, le ha superate, però diciamo ha superato la sua di morte, però non accetta di dover far morire gli altri. Cioè lei vuole salvargli gli altri. Però in realtà non è possibile, perché ormai è giunta la loro ora. Non so se è chiaro il discorso. E loro non possono fare niente. Cioè ormai loro possono solamente far sì che la fine non sia così drammatica e così tragica. Ho capito. E quindi lei... E non può intervenire per salvare le anime di questi qui. No, cioè, però... se lei decide non voglio prendergli l'anima, lui comunque muore. Lui comunque muore. Oppure non cioè, muore. In può realtà non è che muore, però poi lo sentiamo bene, ci viene raccontato. Ah, questo è... che lo sentiamo, ok, sì. Scusa. Però muore la sua anima. Ho capito. Ora quindi appassi tipo un fiore che un fiore che appassisce sostanzialmente. E muore dentro però, per cui è peggio. Ah. Ora, questo glielo spiegano? Sì, glielo spiegano, ah. Perché lei, proprio nella prima puntata, alla fine della prima puntata, che cosa fa? Gli viene assegnato un compito. Non spoileriamo troppo, poi anche perché comunque un pochino si sente dal brano che adesso mandiamo. E in pratica che cosa... mi sono perso. Lei prova a non far morire questa persona. La salva. E però poi Rub, che è il suo capo, le spiega in realtà che questo è male. Tutto ciò è male. Un attimo, mandiamo il brano e buon ascolto. E Piero, però se non mi attacchi lì il brano non si sente. Scusate. Il brano ancora non si sente. Beh, questi sono problemi del Mac, però, cioè, non è mia colpa mia, Ok, allora, ora risolviamo un attimo questi piccoli problemi tecnici, e intanto volevi dire qualcosa? No, io volevo dire che forse c'è gente che ci vuole chiamare nella chat, cioè nel senso, scusami, dalla chat mi dicono che ci vogliono partecipare al quiz. Ok, allora diciamo, quelli della chat, adesso mentre va il pezzo, non chiamate. Vi scriviamo e poi ci quindi ora va, speriamo. Niente. Allora, facciamo così. Mandiamo un altro pezzo. Io lo picchio, io lo scusate, picchio. Scusate, vabbè, allora io vi mando dei tizi impronunciabili che sono gli Squirrel Nut Zippers con Hell. Spero si pronunci così. Di entrare. Oh, perfetto. Perché il tempo stringe, non possiamo mica mandare tutte le canzoni che ci pare. Anche no. Se gli Squirrel Nut Zippers con Elle erano fantastici. Erano carine, dai. Ma insomma, beh, sempre gusti tuoi. Nel senso, sì, non mi esalta, però gusti forse miei. Abbiamo la serie. Risolto i problemi tecnici che il tuo Mac, maledetto, quando ha tagliato il filmato, l'ha fatto a capocchia. E ora forse riusciamo a sentire quello che tu volevi farci sentire, vero? Esattamente. No, vai. Senza forse, lo sentiamo. Buon ascolto. Rube, dove sei? Non gridare. Potevi dirmi che era una bambina, no? Ma che differenza può fare? Fa una grande differenza, perché lei? Secondo te perché? Si è presentata all'appuntamento. Allora avresti dovuto rimandarlo. Non è così che funziona. Non puoi cambiare il destino. Io l'ho fatto. Cosa hai fatto? Che cosa hai fatto? Lei non è morta. Non ho rimosso la sua anima. Si può sapere cosa credi di fare? Voglio che continui a vivere. È una regola cardine. Tutti al mondo devono morire. Ti conviene tornare subito lì e prendere la sua anima alla svelta? Se ci tieni tanto che lei muoia, fallo tu. Non posso. La morte non è trasferibile. Devi farlo tu. Lei è il tuo bersaglio. Solo tu puoi compiere l'azione. Escludendo incidenti imprevedibili, direi che camperà per altri 80 anni. Sì, credimi, saranno 80 anni che lei non vorrà. Con questo che vorresti dire? Il suo destino era segnato da quando è salita sul treno. La sua anima è scaduta. Sai che succede quando la scadenza non viene rispettata? No. Quello che succede al latte, scadendo va a male. Le anime vanno a male in mille modi. Ma... Senti, se hai difficoltà a comprendere la severità di questa situazione, perché non consulti il termine sciagura sul dizionario? Se non prendi la sua anima, allora appassirà, morirà e marcirà dentro di lei. L'ho visto accadere. Vuoi che venga condannata a questo? È solo una bambina. Non può morire, è crudele. Sì, è crudele. È crudele non farle sapere com'è veramente la vita. È crudele non farle conoscere l'amore, la bellezza, il dolore. Ma purtroppo è così che va il mondo, anche per lei. Chissà quante possibilità avrebbe avuto davanti a sé. Ah, è così che vanno le cose. Ma... io volevo soltanto salvarla. Non puoi. Non puoi salvare nessuno. E eccoci. Questo era appunto il brano di cui parlavamo prima, in cui si dice appunto non puoi salvare nessuno, la sua ora è segnata, puoi soltanto cercare di farli morire bene. E questo è tutto quello che puoi fare. Ora, per quanto possa sembrare tragica questa serie vista in questo modo, in realtà è molto divertente. Ci sono molti... Ci sono pezzi divertenti, ci sono ma non li abbiamo mandati per non togliervi tutta... No, perché tutta... poi sennò vi toglie tutto il bello. Ok. E comunque è una serie per non fare troppo... Spoiler. Esatto. Noi siamo stati zitti, siamo stati bravi. E quindi per questa volta abbiamo detto quasi niente di spoiler. Abbiamo solo parlato del primo episodio. Del primo episodio. Perfetto. Ora, detto questo, io chiamerei in fretta e furia Sebastiano e Matteo, che ci stanno aspettando. No, effetti sonori per noi da Skype. Pronto? Pronto. Pronto. Buonasera, allora presentatevi, ciao, chi siete, da dove chiamate, uno per volta. Ciao, io sono Sebastiano. Da dove chiami? Sono Seba. Io chiamo da Pisa. Invece Matteo? Buonasera, sono Matteo, chiamo da Siracusa in diretta alla Sicilia. Però grande. Mi sembra di notare una certa somiglianza fra voi due. Sì, la somiglianza vocale, sì. Ma perché? Suonano in un gruppo insieme, no? Ma di più, no, siamo di fratello più. E fratello. Fratello e fratello, un nuovo grande. Gruppo. Un fratello e sorella. Bene. Allora, fratello e fratello, io vi chiedo, volete le domande della busta numero 1 o le domande della busta numero 2? Matteo, scegli tu. Vai, la 1. La 1, attenzione. Vai. Ora, Tommaso vi leggerà la prima domanda con le 4 opzioni. Allora. Vai, Tommaso. La famiglia Jefferson nasce originariamente come comprimaria in una sitcom che racconta le vicende di un bisbetico capofamiglia bianco, pieno di pregiudizi e difetti tipici dell'uomo medio. Di quale serie di enorme successo stiamo parlando? Avete capito la domanda? Sì, cioè... Okay, vi do le 4 risposte. Allora, non penso che Matteo se la ricordi i Jefferson, non credo. Vabbè, rispondi tu. Allora, ovviamente, vi do le 4 risposte. Vai. Arcibaldo, Quincy, Matlock, Sanford and Son. Io allora ti dico, non la so. Ok, praticamente i Jefferson, mi ripeti la domanda, i Jefferson sono stati come? Cioè, in pratica, sì, in pratica in realtà all'inizio facevano parte di un'altra serie. Un'altra serie praticamente. Che raccontava le vicende di questo bisbetico capofamiglia bianco. Chi sarà il bisbetico capofamiglia bianco? Arcibaldo. Vabbè, per un attimo Matlock o Sanford and Son? Allora, gli ultimi... Matlock non credo, che è proprio un'altra serie, io ricordo. Okay. E l'ultimo sembra una serie di avvocati, e non mi sembra tipo Sanford e non so che, Associated qualcosa. Uh-huh. I primi sono Arcibaldo e Quincy. Esatto. Ma chi è bisbetico? Secondo me è Arcibaldo, perché Quincy è un nome da, diciamo, forse più afroamericano, direi, no? La accendiamo? Accendiamo, Matteo? Accendiamola. Accendiamola alla grande. Incredibile, signori, la risposta è esatta. Uno che culo. Infatti, Jefferson, in onda dal 75 all'85, nasce come spin-off appunto di Arcibaldo, popolarissima serie TV americana, e tra gli interpreti addirittura il grande Carol O'Connor e Rob Reiner. Stica. Ma andiamo avanti. Però, io preferivo comunque i Robinson, mi facevano troppo morire. Sono pareri personali, questo... La domanda era sui Jefferson, quindi ho capito, cioè, più o meno là siamo, ok, facciamo esatto. Più ridere secondo me i Robinson comunque. Ok, passiamo alla seconda domanda, vai Tommy. Allora, anche questa è un po' difficile, però si può fare. Chi negli anni 60 e per quasi 200 puntate ha indossato i panni del sentimentale dottor Kildare o Kildare, qui non so sinceramente la pronuncia, non ve la so dire. Io direi Kildare. Anch'io, però. Risposta numero A. No, numero. Risposta A. Richard. Non lo so pronunciare. Però... Chamberlain. Scusatemi, ma la pronuncia strambe. Risposta perché B. Perché sei stato in Francia, Tommaso. E non in Inghilterra, è vero. L'avresti risposta detto Chamberlain. Risposta B. James Garner. Risposta C. Andy Griffith. Risposta D. Robert Wagner. Chi cacchio sono? Cioè, allora, ricapitolando, questi qui hanno fatto il dottor chi? Kildare. Il dottor Kildare. James Kildare. Che era di una serie che noi tutti conosciamo, giusto Matteo? Okay. Ma... Negli anni 60. Dai, degli anni... Non ti ricordi le serie degli anni 60? Avevi 15 anni. Secondo me è qualche serie di qualche ospedale, secondo me. Tipo lo... Ad esempio, ma tanto tu ci devi dire l'attore. Lo so, però magari tu lo sai che non lo so. Ma Tommaso, io ti posso dare l'aiuto. Io dico sempre le cose giuste. Senti, dato che non lo pronunciavi bene, no, non sarà il primo da capo. Matteo, dimmi un numero. Avete sentito l'aiuto di Piero? No, ovviamente no. Piero, ridegli il tuo aiuto. Ho detto che io dico sempre le cose giuste. No, ripeti il primo. Richard Chamberlain. Chamberlain. Vabbè, è lui sicuro. Quindi la vostra risposta qual è? La? Sì, secondo me è il ciambellano, sì. Incredibile, non so come ce l'avete fatta, ma ancora una volta esatta. Questo qui è, non si sa chi è, cioè anche lui lo sapeva di essere un attore, secondo me. Infatti nel 61 venne creata proprio una serie intitolata James Kildare, e Richard Chamberlain ebbe la parte del gentile e sentimentale protagonista. La serie andò in onda per conosciuta sta serie. 5 stagioni, come? Io non la conosco. 5 stagioni, clamoroso successo per il pubblico, grande parte chiaramente femminile, perché questo tizio era molto dolce e sensuale. Aveva delle movenze dolci e sensuali. Ma rapidamente passiamo, attenzione, rischiano di vincere la tazza, la famiglia di Pietro. Tutta la famiglia. Tutta la famiglia sta cercando di vincere la tazza virtuale, non più virtuale, degli spaccia serie. Ok, con l'ultima domanda, questo. Ci siamo quasi. Ci siamo. E questa, secondo me, ci potete arrivare. Vai Matteo, tu sei il protagonista, devo dire, fino ad ora. Dai. Siamo pronti. Allora, in quale teen drama ha esordito la grande attrice americana Hilary Swank? Swank. SWANK. Lo so, non c'è bisogno che lo dici. Attenzione. Vuoi provare senza le risposte? Karate Kid. Senti, ascolta tuo fratello. Serie TV, Sebastiano. Serie TV, no, però mi piaceva Karate Kid. Ascolta tuo fratello, dai retta a tuo fratello. Dai, le risposte. Ha fatto anche Karate Kid. Vabbè, allora. Forza che stiamo sporando. Risposta A, Beverly Hills 90210. Cazzo, team drama. Risposta B, Melrose Place. Uh-huh. Risposta C, Dawson's Creek. No, Dawson's Creek. Risposta D, The O.C. No, The O.C. è troppo recente, dai. Allora, vi do un aiuto. A parte Dawson's Creek l'ho visto tutto, quindi è impossibile. E anche O.C., quindi lei non c'è. Ok. Vai. Vi do un aiuto. Tanto già hanno il 50 e 50. Ah, ok, già giusto. Ascolta, e io allora solo Beverly Hills vedevo, ma mi pare che me la ricordo che c'era lei. Non c'era su Beverly Hills lei. Ma sei sicuro? Dei due. Non ne sono sicuro. No, allora, non lo tu hai escluso Dawson Creek e The O.C. Dawson Creek, vabbè, O.C. non c'è, perché se no non gli davano l'Oscar, non le davano, che sia chiaro. Perfetto. Primo. Quindi, seconda cosa. La risposta A, Beverly Hills 90210, e la risposta B, che è Melrose Place. Non lo so, Matteo. Ora, tu che... Allora, dato che finora è stata la prima, sempre la prima. Ma io non allora, io non dico niente. Stavolta non dico niente. Anche se volendo un suggerimento ci può essere stato. Però comunque dite la prima, la vostra risposta definitiva è la A? Sì. Vabbè, io seguo Matteo, dai. Beverly. Siete sicuri? Io sì. Sì. Lui sì, quindi. Ok. E allora la risposta è esatta. Siamo dei vincitori. Abbiamo dei stasera. Vincitori. E che infatti Hilary Swank, nata nel 74, nel 94 era la protagonista di Karate Kid 4. Aveva grande, vinto. Grande Karate Kid. E nel 97 ottiene la padre della madre single, Kerry Reynolds, in Beverly Hills 90210. Complimenti. Ma anche perché Melrose Place non se lo vedeva nessuno, cioè era veramente pallosissimo. E dopo questo commento finale noi salutiamo sia Matteo che Sebastiano che hanno abbiamo vinto la tazza, lietato il nostro quiz. Siamo forti. Poi vi arriverà per se non chiudete Skype a breve vi mandiamo la tazza. Okay. Via Skype praticamente. Esatto. Ottimo. Ma cioè velocissimi alla grande, ma certo. Vabbè, allora buona serata e grazie, complimenti per la trasmissione. Grazie Seb. Grazie. Dai, ciao. Intanto noi salutiamo anche noi tutti quanti perché sta per andare in onda dopo di noi All Nights Long. Ok, perfetto. All Nights Long. E vi salutiamo con un pezzo. Con un pezzo molto famoso in realtà. Il pezzo è Che sarà sarà, pezzo famosissimo, eseguito però, questa volta da Pink Martini. Martini, in una versione riadattata alla e adattata proprio alla serie TV stessa. È il pezzo tra l'altro che fa da colonna sonora al brano che abbiamo ascoltato prima e che poi conclude la prima puntata della prima stagione. Perfetto, per oggi è tutto. Ci sentiamo. Una cosa, non ci sentiremo la settimana prossima perché siamo in vacanza. E chissà se ci sentiremo tra due settimane. Tra due settimane non si sa, ma quasi sicuramente fra tre settimane ci siamo sicuri. E siamo, anche nel nuovo studio di Radio Cicletta. Lusso. Ma a parte questo. E adesso mandiamo il pezzo, salutiamo e alla prossima. Seguiteci su Facebook, manteneremo un avviso per quando andiamo in onda. Ciao a tutti. Ciao.